Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Alboni fece 126 telefonate ad altrettanti sconosciuti concittadini, gabellandoli per attricette e indossatrici. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì. Ho due amici. Beh, diciamo di mezza età. Uno piccolotto, grasso. L'altro magro, ma miope. Occhiali doppi. Tipo civetta, sai. Come? Ah, ho capito. Vabbè. Ciao Zizi. Occupate anche questa. Ma che? Sarebbero venute tutte, ma non appena vi descrivo inventano una scusa. Ma scusi, lei ci descrive così, Dice civetta, dice. Ma io non posso rovinarmi la piazza, non posso tirar bidoni, ecco. 187 PC È un interessante nome nuovo italiano quello che ha aperto l'ultima parte di Eclettica di quest'oggi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, così tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. giulio@rockfm.com è l'indirizzo da utilizzare anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica, e myspace.com/eclettica è il nostro spazio su internet. Vi dicevo, un nuovo interessante nome italiano, per ora è solo un'autoproduzione, quindi non c'è ancora un'etichetta che li ha pubblicati, magari succederà nei prossimi mesi. Trabant provengono da Trieste, ce li siamo ascoltati con 187PC e questo è il brano che si è appena chiuso. Si rimane in Italia riascoltando le regole per un cervello difettoso che ci propongono i Carpaccio. Sentirsi di nuovo La dialettica escatologica come cura per le emorroidi. Possiamo asserire che l'universo consiste di una sostanza che chiameremo atomi, o che altrimenti potremmo denominare monadi. Democrito le chiamò atomi, Leibniz le denominò monadi. Fortunatamente i due uomini non si incontrarono mai, altrimenti sarebbero ancora lì a blaterare. Queste particelle erano messe in movimento da una certa causa o da un principio primo, o forse da qualcosa accaduto da qualche parte. Il fatto è che è ormai troppo tardi per porvi rimedio, salvo forse mangiare del pesce crudo. Ciò naturalmente non spiega il perché l'anima è immortale, né dice alcunché circa una vita dopo la morte, o della sensazione che prova mio zio Sender di essere pedinato dagli albanesi. La relazione causale, che intercorre tra il primo principio, cioè Dio, o un vento impetuoso, o qualunque concetto teologico sull'esistenza, l'essere, è, secondo Pascal, così ridicolo da non essere neppure divertente. Schopenhauer lo denominò volontà, ma il suo medico lo diagnosticò come febbre da fieno, e nei suoi ultimi anni egli fu profondamente amareggiato da ciò, o più verosimilmente per colpa del suo crescente sospetto di non essere Mozart. Il cosmo a 5 dollari al giorno. Cos'è mai dunque la bellezza? Il connubio tra l'armonia e il senso del giusto, o il connubio dell'armonia che giustamente suoni come il giusto? Probabilmente l'armonia avrebbe dovuto essere associata con il fusto, ed è questa la ragione che ci sta dando le maggiori preoccupazioni. La verità è bellezza, questo è certo, ossia è l'indispensabile, cioè ciò che è buono o possiede la qualità del bene determina la verità. Se non lo è, potete scommetterci che la cosa non è bella, malgrado possa essere effettivamente impermeabile. Ma forse avevo ragione dall'inizio. Pazienza. Questo era ancora la mia filosofia da Saperla Lunga di Woody Allen. My friend, you were the model, a priceless work of art. Boys would fashion their emotions to the pattern of your heart. And I heard you wrote that record for a girl you loved that died. I'm here sewing mine together, just hoping you're alive. And I know you'll never come back now to the world where people are, 'cause you never understood what they loved you for. Thank you. just circles round to where it was before. So I hope I see you soon in some other form. Scusi, hanno per caso delle singole per due? Abbiamo solo appartamenti, signore. Ma quanto costano? 60.000. Solo? Fantozzi pensò 60.000 al mese. Siamo in bassa stagione, signore. La suite sul mare viene sulle 80.000, signore. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io te lo prendo! L'ho fissato! È mio, Non lo canta nessuno, Adesso le do subito, ecco qua, i documenti. Questo è il passaporto della signora, sì. della signorina, sì. E questa è la mia tessera della Bocciofi. Bene. Adesso parto. Siamo riascoltati Bright Eyes, però non dal loro ultimo album, ma dal EP Four Winds che l'aveva preceduto di pochi mesi. Rain Went the Wheel, il titolo del brano, passato subito prima di quello che si è appena chiuso da parte dei Blitz and Trapper, Wild Mountain Nation, estratto dal loro ultimo album. E invece ora in arrivo un'opera un po' particolare che proviene da due musicisti non, diciamo, eccessivamente famosi. Il primo dei due si chiama Resplendent. Questo è uno pseudonimo, a tutti gli effetti si chiama Michael Lenzi. È circa 10 anni che fa musica sia da solo che all'interno di due band, Number One Cup e Fire Show. C'è un suo pezzo, Spring, che ha tenuto nel cassetto per qualche anno senza mai dargli una spinta, neanche non ufficiale, su internet, diciamo più di tanto. Quindi non era un brano molto evidente. È entrato in possesso di questo brano Mike Downey, musicista statunitense che però da qualche anno si è stabilito a Stoccolma, che ha fatto parte di gruppi come i Wolfie o i Mudhoney, ma anch'esso si è dedicato alla carriera solista. Ecco, ha preso questo brano e l'ha leggermente modificato ed ora viene pubblicato come un'opera a nome dei due, quindi un'opera a nome sia di Resplendent che Downey. Il titolo di questo brano è Spring. Parabole. Un uomo si avvicina ad un palazzo. L'unico ingresso è sorvegliato da feroci unni che lasciano entrare soltanto le persone di nome Giulio. L'uomo tenta di corrompere le guardie, offrendo loro per un anno la fornitura di razioni scelte di pollo. Esse non rifiutano né accettano la sua offerta, ma semplicemente gli afferrano il naso e glielo torcono fino a farglielo diventare come un cavatappi. L'uomo asserisce che è imperativo che lui entri nel palazzo, perché deve recare all'imperatore la biancheria di ricambio. Allorché le guardie gli oppongono ancora un rifiuto, egli inizia a ballare il Charleston. Esse sembrano apprezzare la sua danza, ma subito si corrucciano pensando al trattamento riservato ai Navajos dal governo federale. Ormai rimasto senza fiato, l'uomo crolla al suolo. Egli tosto defunge senza aver visto l'imperatore, lasciando un debito di $60 verso la Steinway per un pianoforte da lui noleggiato nel mese di agosto. Mi è stato affidato un messaggio da consegnare ad un generale, cavalco e cavalco, ma l'accampamento del generale sembra allontanarsi sempre di più. Improvvisamente una gigantesca pantera nera balza sopra di me e mi divora la mente e il cuore. Questo episodio mi guasta la bella serata. Malgrado ce la metta tutta, non riesco a raggiungere il generale, che vedo correre in mutande in lontananza, proferendo le parole «noce moscata» all'indirizzo dei suoi nemici. Aforismi. È impossibile sperimentare la propria morte oggettivamente e continuare a cantare una melodia. L'eterno nulla va perfettamente bene se sei disponibile ad affrontarlo con un abito adatto. L'universo è soltanto un'idea fugace nella mente di Dio, un pensiero piuttosto scomodo, proprio come se avessi appena versato l'anticipo per l'acquisto di una casa. Se solo Dionisio fosse vivo, dove andrebbe a mangiare? Non solo Dio non esiste, ma provate a cercare un idraulico durante i weekend. Questa era ancora la mia filosofia, da Saperla lunga, di Woody Allen. Slept for days. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 42, volume numero 5. Indice, Susan Vega, The Pigeon Detectives. Wilco, Jennifer Ever, The Dead Sixties. Trabant, Carpaccio, Bright Eyes. Blitz and Trapper, Resplendent Downey, Piano Magic. Giulio Caperdoni vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda a settimana prossima, a lunedì, come sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.